ci saranno quattro panieri, ci hanno detto alla Casa Bianca, su cui si lavorerà. Il primo paniere è il paniere, diciamo, della cooperazione a lungo termine, quella di cui già si parlerà durante la cena di martedì sera. Il secondo paniere riguarda la sicurezza, riguarda le tematiche politiche. Al primo posto nella lista c'è la problematica della Corea del Nord. La Cina controlla la Corea del Nord, ovviamente. Gli Stati Uniti sono molto preoccupati, molto insoddisfatti di questa straordinaria, preoccupante indisciplina che vediamo giungere in un crescendo dalla Corea del Nord. E dunque Barack Obama vorrà avere delle garanzie precise sulla determinazione con cui Pechino interverrà per controllare la Corea del Nord. Il pericolo è quello di una proliferazione nucleare, è quello di una destabilizzazione della regione, pericoli che non sono né negli interessi americani né ovviamente in quelli cinesi. Si parlerà di Iran, si parlerà di Sudan, poi c'è il terzo paniere che riguarda le questioni economiche di cui vi ho parlato prima, infine il quarto paniere, le questioni dei diritti umani, su cui Barack Obama ogni tanto interviene molto prudentemente, su cui i cinesi sono sempre straordinariamente resistenti. Questo è il quadro con cui si aprirà questa settimana cruciale per i rapporti Stati Uniti-Cina e per le conseguenze sul quadro geopolitico mondiale.